391. Sformato di carciofi. Questo è uno sformato da farsi quando i carciofi costano poco e ve lo do per uno dei più delicati. Levate ai carciofi le foglie più dure, spuntateli e sbucciatene i gambi, lasciandoli tutti anche se sono lunghi. Taglianteli in quattro spicchi e fateli bollire nell'acqua salata per soli 5 minuti. Se li lasciate di più sopra il fuoco, oltre ad inzupparsi troppo di acqua, perdono molto del loro aroma. Levateli asciutti, pestateli nel mortaio e passateli per istaccio. Dosate la polpa così ottenuta con tutti quegli ingredienti soliti negli altri sformati di erbaggio, e cioè uova, non facendo avarizia ad uno di più, onde restringa, 2 o 3 cucchiaiate di balsamella, ove non ne scarseggi il burro, parmigiano, sale e odore di noce moscata, ma assaggiate il composto più volte per ridurlo a giusto sapore. Se avete sugo di carne o di stracotto, non è male l'unirci un poco anche di questo, e se i carciofi sono teneri, anziché passarli, potete lasciarli a piccoli spicchi. Cuocetelo a bagnomaria e in uno stampo bucato, se avete un intingolo di carne per riempirlo, se no, mettetelo in uno stampo liscio e servitelo per tramesso.